Radio 24. Libera la voglia di fare. Conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Ed eccoci qua, cari ascoltatori di Radio 24, benvenuti e grazie per l'ascolto diretto in podcast ai Conti della Belva in questo sabato 30 di settembre. I compari dei Conti della Belva, come sempre, vi riservano un aperitivo di quelli un pochino, per così dire, sapidi e contemporaneamente con una punta di amaro. Io sono torinese, il Punta Mess fa parte della mia tradizione, era appunto, c'era questa punta di amarognolo, i vecchi vermut, vabbè, altri tempi. Comunque, cari ascoltatori, ora vi dico subito di che cosa parliamo, ma intanto i saluti e qui con me in studio intanto il grande Renato, il nostro imprenditore. Buongiorno a tutti. Il punto di saggezza della squadra. L'unico altri... che non lavora, perché gli altri sono impegnati a lavorare. Non è vero, perché come sempre, ma perché, se fai così iniziamo male, perché poi una parte del pubblico non capisce che è un'ironia, caro Renato, caro Renato. Allora, collegato con noi oggi, collegato Mario Seminerio. Ciao Mario. Eccoci, buongiorno a tutti. Ed è collegato con noi, o tra poco ci raggiungerà, ma lo scopro solo in diretta, anche caro Alberto Carnevale Maffè. Mi dicono dalla scusa che ci raggiunge tra poco. Ci raggiunge tra poco? No, c'è anche caro Alberto. Pronto? Professore, come andiamo? Andiamo bene, qui più che un aperitivo serviamo l'arsenico ai nostri ascoltatori. Vogliamo avvelenare con le nostre battutacce, con i nostri commenti. No, anzi, visto dove sono, direi un prosecchino va bene. Attento che non sia troppo acidognolo, però, perché i prosecchi, sai, io sono più per il Franciacorta, vabbè, ma ognuno ha i suoi gusti. Allora, di che cosa parliamo, cari ascoltatori? Allora, parliamo oggi innanzitutto il punto, i dati della settimana, gli sviluppi sulla scena europea, la Francia. Ci sarà un approfondimento anche più avanti. Prima esaminiamo il bilaterale italo-francese e il discorso di Macron al vertice in Estonia ieri, la Merkel che per prima gli risponde, e poi approfondiremo più avanti invece nella trasmissione l'intesa che ha riguardato l'affaire Fincantieri STX in Francia. Però intanto cominciamo con i dati di Mario. Dopodiché dalle 10.30 alle 11 un blocco in cui partiamo dal grande scandalo che ha decapitato decine di docenti di diritto tributario nel nostro paese. Ci porremo il problema: dove va questa università italiana rispetto ai concorsi concordati per di abilitazione? Ma però immediatamente poi andremo alle imprese, perché il vero problema che interessa più noi, a dirvi la verità, senza sottovalutare quello che è avvenuto e le sue conseguenze, è che l'offerta formativa non ci convince dell'università italiane. E quindi, come sempre, un approfondimento: ma dove diavolo possono e come fanno le imprese a reclutare coloro di cui hanno davvero bisogno, visto che la maniera in cui sono costruiti i diplomi, le lauree del terziario italiano e del post terziario non è ciò di cui hanno bisogno. Ci mancano 30.000 ingegneri in questo momento, è il conto che viene dalle imprese italiane per i prossimi mesi, che sarebbero necessari, più che mai necessari, poi col modello di industria 4.0. Industria 4.0 non devono essere solo gli incentivi per comprare le macchine, ci vuole qualcuno poi che sappia che cosa farci fare. Dopodiché, dopo l'interruzione del giornale Radio, una serie di rapidi blocchi con alcune questioni. Cominciamo dallo scandalo schifoso dello spesometro, che questa settimana ha toccato dei vertici incredibili da questo punto di vista. Io sono per la linea chiara a cui sono arrivati i commercialisti alla terza proroga. Chiedono che venga sospeso, perché come sa chiunque debba adempiere gli obblighi dello spesometro, non funziona ancora e non siamo tutelati sui nostri dati individuali. Questo è lo Stato che si vuole prendere la rete di TIM, perché è strategica la tutela dei dati, e poi nel rapporto col contribuente fa un default di queste proporzioni. Nessuno ci ha chiesto scusa, ma noi approfondiremo ovviamente con un operatore di quelli che sta al nostro fianco di poveri contribuenti, cioè con un commercialista. Andiamo poi ad affrontare questa intesa, che a me personalmente non convince molto, tra Fincantieri e i cantieri Saint-Nazaire francese, e poi avremo un altro blocco. Torna con noi Udo Gumpel per capire la Germania verso dove sta andando. Ma oltre a questo, il consueto giro su con ciascuno di noi che segnala che cos'altro aggiungere con un'altra osservazione. Cominciamo dal professor Carlo Alberto, che però sparito. Non mi sente. Il professor Carlo Alberto è già caduto la linea. Andiamo a Mario. No, no, ci sono. Ah, vai, sono. Vai. No, scusate. No, io volevo adesso volevo vedere l'affronto Italia-Francia. Sostanzialmente mi ha fatto sorridere, perché i governi si dicono liberali, poi in realtà tutto succede nelle segrete stanze delle negoziazioni politiche. È la sensazione che alla fine si parla tanto di mercato, ma le decisioni di aziende quotate in borsa e teoricamente indipendenti la prendono i politici negoziando. Direi, non è un bel segnale. Direi di sì. Io mi sono permesso di irridere poco rispettosamente forse i colleghi del Corriere della Sera che titolavano la privatizzazione elastica. Ho detto, beh, certo, con due governi che decidono, due stati che decidono e reciprocamente diffidano l'uno dell'altro, come vedremo dalle clausole parasociali che adesso passeranno 8 mesi per scrivere, beh, una vera privatizzazione, con due stati che decidono tutti. Invece, Mario, cos'altro vuoi segnalare? Ma questa settimana sono uscite le motivazioni della sentenza di assoluzione a Trani per Standard & Poor's e i suoi dirigenti. È molto interessante perché, diciamo, queste persone e la stessa agenzia sono stati assolti perché di fatto il tribunale ha ritenuto che non ci fu manipolazione di mercato e non ci fu neppure con i 3 report negativi su manovra finanziaria e debito sovrano che furono emessi nel breve arco temporale da maggio a luglio del 2011. E tuttavia, nelle motivazioni di questa sentenza resta confermato il sospetto che gli interventi di Standard & Poor's siano stati mossi e connotati da sicuro pregiudizio verso l'Italia. Ora, come sia possibile che possa esistere un sospetto di sicuro pregiudizio, io lo lascio alla valutazione degli ascoltatori. Diciamo, sospetto e sicuro è un ossimoro grande come un grande sicuro accento. È meraviglioso, semplicemente meraviglioso. Diciamo però che questa è una costruzione della motivazione di assoluzione che fa felice la procura di Trani. E infatti, non a caso, il dottor Ruggero sui social ha parlato di missione compiuta, con la sua bella bandierina tricolore, perché alla fine è stato un esaltante sconfitto. Il sospetto sicuro, va bene. Siccome l'appetito viene mangiando, adesso aspettiamo la prossima tappa il famoso processo Deutsche Bank. Esatto, non ci deludano mai, la procura di Trani non ci delude mai. Invece, ne parliamo dopo. Io ho di fianco l'ufficio amministrazione, ti lascio immaginare, questa settimana ne ho sentite di tutte sullo spesometro. Ma questo poi lo approfondiamo. Io vi devo dire invece due pillole, perché poi non possiamo approfondirle. Considero la bocciatura dell'OREF, l'organo di vigilanza sui conti del Campidoglio, emessa ieri al consolidato del Campidoglio 2016, con fondamenti seri, l'ho trovato su tutti i giornali stamattina, dovuti all'opacità della mancata riconciliazione di centinaia di milioni di dare e avere, crediti e debiti tra Campidoglio e le partecipate, e il fregarsene come fanno quelli dei 5 Stelle e della Giunta Raggi, a mio giudizio, io non critico mai pregiudizialmente i 5 Stelle, è un vero atto di asineria istituzionale e contabile, perché ci sono in ballo centinaia di milioni. Ne ho scritto più volte sul Messaggero, una partita lunga, di anni, molto spesso mancano le documentazioni, bisognava lavorare seriamente, era stato richiesto da mesi e mesi dall'OREF. Il problema è che sono cambiati troppo spesso gli assessori al bilancio. Ma è un problema vero, amici dei 5 Stelle. Secondo, l'approvazione del codice antimafia questa settimana, che estende i poteri di sequestro in fase di misura cautelare prima di un qualunque rinvio a giudizio, di un interrogatorio del GUP, a reati che non sono solo quelli di associazione mafiosa, ma sono reati anche di semplici indagati contro la pubblica amministrazione, a mio giudizio è una barbarie istituzionale. Lo pensa il professor Cassese, lo pensa il presidente emerito della Corte Costituzionale Marini, lo pensano in tanti. Credo che sia stato compiuto un gravissimo errore che fa fare al diritto italiano un altro passo verso la mancanza di garanzie verso gli indagati. Chi partecipa a una gara, ne conosco mucchio di imprese che si beccano l'avviso poi e naturalmente vengono poi archiviate, non gli si può sequestrare il patrimonio e l'azienda come se fossero dei mafiosi. Va bene, ci sentiamo tra poco. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Fratelli d'Italia, gli Voci della Belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non vi preoccupare. Ed eccoci qua con la consueta sigletta, iniziamo con Mario. Da dove cominciamo questa settimana, Mario? Ma io parlerei della nota di aggiornamento al DEF che è stata licenziata dal Consiglio dei Ministri e, come ormai da consolidata tradizione di questa legislatura, ci sono dei numeretti che quadrano meravigliosamente su un orizzonte triennale, a parte che poi quell'orizzonte triennale continua a spostarsi in là ogni anno, per cui è un orizzonte triennale mobile. Però, a parte le battute, c'è una divergenza nella valutazione del MEF rispetto al consenso di tutti i principali previsori domestici e internazionali, cioè nel 2018 e 2019 il PIL italiano è visto dal governo all'1,5%, esattamente come nel 2017, mentre per gli altri previsori sarebbe in un intorno di 1,1-1,2. Ora, questo è, come al solito, frutto di quella magia tale per cui, se noi ogni anno disinneschiamo le clausole di salvaguardia, questo disinnesco determina magicamente una espansione aggiuntiva del nostro tasso di crescita e vi sono tutti felici e contenti. Quindi proprio è veramente magica questa cosa. Eh sì, anche perché si tratta di abolire imposte che non c'erano, quindi vabbè, ma lasciamo. Sì, esatto, diminuiamo le tasse. Che non sono incorporate, esatto, nelle attese degli operatori economici. Comunque diciamo che per far quadrare i conti, sia la crescita attesa sia il computo degli interessi sul debito nei due anni successivi in cui sparisce, è molto, tra virgolette, ottimistico. Insomma. Esatto, è molto ottimistica, soprattutto la valutazione, a oggi è ottimistica, la valutazione della crescita del PIL nominale, perché passerebbe dal 2,1 di quest'anno al 3,1 dell'anno prossimo, al 3,4 del 2019-2020, cioè con un deflattore del PIL che passa in un anno dallo 0,6 all'1,6% e per Mio questa Dio. Via avvia l'abbattimento, esatto, del rapporto debito-PIL, come ogni anno ci viene detto nella nota di aggiornamento al DEF per il triennio successivo. Quindi direi che più o meno siamo alle solite. È vero che, a differenza degli anni scorsi, quest'anno la crescita c'è, è robusta, è assolutamente godibilissima e godevole, soprattutto sul piano politico per alcuni, però ancora una volta abbiamo questo magheggio. Soprattutto, sai cosa, Oscar? Cioè, da dire che mentre quest'anno, tra le variabili esogene, il commercio internazionale ha fatto un mini boom, ed è vero, l'anno prossimo viene visto già in lieve ripiegamento. Se poi, come hai detto tu, aggiungiamo che il tasso euro-dollaro dovrebbe, diciamo, risultare differente, nel senso di un irrobustimento dell'euro, le quotazioni del greggio sono viste in aumento e lo sono nei fatti già attualmente, non è chiaro da dove verrà questo quid aggiuntivo di crescita. Io ti dirò che ho apprezzato il fatto che Padoan, anche se i giornali italiani non hanno scritto il perché, invece dell'atteso 1,8% di deficit per l'anno prossimo si è fermato all'1,6, e i giornali non hanno scritto che dietro c'è una richiesta riservata ma formale della Commissione europea. I renziani sono entrati immediatamente in tensione, perché Renzi aveva detto nel seminario riservato che bisogna puntare al 2,9% per i prossimi 5 anni di deficit. Poiché in Senato MDP, cioè la sinistra, a sinistra del PD, questa schema non lo farà passare, vedrete, faccio questa facile previsione, che i renziani stessi in Parlamento, di fronte alla posizione della sinistra che fa mancare la maggioranza, la legge di bilancio, non sulla nota del DEF di aggiornamento, ma sulla legge di bilancio, vedrete che lo stesso PD proporrà emendamenti, sfonda deficit, e quindi noi andremo verso il 2,1, 2,3, 2,4, vedremo, ma questo è fin troppo facile prevederlo. Perché questa è la dinamica preelettorale. Aggiungo che la cosa che mi ha colpito di più e di cui i giornali italiani non hanno parlato sono due cose che si trovano più avanti nella nota di aggiornamento. La prima è semplicemente l'aggiornamento attuariale della spesa previdenziale, dal 15,3% del PIL attuale a legislazione attuale, senza far passare ulteriori prepensionamenti che invece vedrete apparire nella legge di bilancio alla Camera e Senato. La proiezione è che noi andiamo al 2030-2035 al 18,3% di PIL, per poi scendere dopo, ma intanto cresce di altri 3 punti di PIL la spesa previdenziale. Poi la parte che poi nessuno si è proprio guardato è l'esercizio di simulazione in caso di un'uscita, diciamo così, un po' drastica dal QI, che possa riaprire il margine per una crisi del rischio sovrano, cioè per 200 punti, diciamo, più o meno di spread in più, e qualche riapertura di rischio di credito nel nostro paese. Ecco, in questo caso la tabella riportata a pagina 94 della nota indica che restiamo con un debito pubblico superiore al 130% per i prossimi 12 anni. Ecco, nella nota ci sono anche queste due cosette. Vabbè. Poi, che altro, Mario? Ma un aspetto economico, ma non solo economico, che è piuttosto così da furbetti, è il fatto che il Senato italiano ha rinviato sine die l'avvio della discussione sulla ratifica del CETA, no? Il trattato di libero scambio tra Unione Europea e Canada. Su proposta di Sinistra Italiana, diciamo, in commissione, nella commissione dei capigruppo, si è deciso di rinviare. Perché si è deciso di rinviare? Non so, forse per ascoltare tutti questi ululati che vogliono che dal Canada arrivino puri veleni nelle nostre tavole, OGM, salmoni volanti, diluente al posto, non lo so io, di vini. Non è dato sapere, però quello che è dato sapere è che esiste in questo paese una subcultura minoritaria che ha la grande aspirazione di diventare egemonica, vedi come parlo difficile oggi, che è la subcultura cialtrona sovrana, che è quella che dice: attenzione, noi siamo un paese trasformatore, vogliamo esportare, però non vogliamo importare. E questa cosa, no, che a me ha sempre fatto impazzire. Noi dobbiamo esportare le nostre meraviglie, le nostre eccellenze alimentari e quant'altro, però non ci devono avvelenare, perché tutto quello che arriva da fuori ci avvelena, come dimostrano del resto i reiterati tentativi della Coldiretti di far passare l'idea negli italiani che il grano canadese, non so, ha le micotossine, è radioattivo, c'è dentro il plutonio, l'uranio impoverito. E in questo si scontra con l'industria italiana della trasformazione alimentare, perché i signori della Coldiretti non riescono a farsi una cavolo di ragione che la produzione indigena domestica di grani non è comunque sufficiente, in alcuni casi è qualitativamente inidonea a produrre le paste della infatti, nostra rinomata qualità nazionale. Mangeremo la trota salmonata. Allora, dai, rapido flash in 3 minuti, ma il discorso della Sorbona di Macron. Mario, dici un paio di punti che ti hanno colpito di più? Beh, una grande visione strategica che vuole spingere l'Europa a compattarsi, se del caso creando i cerchi concentrici, eccetera, magari con un direttorio franco-tedesco, per diventare un grande blocco più omogeneo, coeso e assertivo nella dialettica tra grandi macro blocchi mondiali, per evitare di farci stritolare dal trumpismo da una parte e dalla Cina dall'altra. Per cui questi sono tempi molto duri per i liberali classici, a Carlo Alberto, che attendono, come dire, il liberalismo e la libera concorrenza, perché giochetti come quello di Fincantieri, che è la versione deforme di altri accordi ben più strutturati, come ad esempio quello tra Siemens e Alstom nel ferroviario, che abbiamo visto in questa settimana, diventeranno sempre più frequenti, perché i francesi con Macron hanno preso atto e coscienza che non servono più campioni nazionali, ma udite, campioni continentali. Io, e questo secondo me è una rivoluzione copernicana. Io devo dire che sono molto d'accordo con te, tanto è vero che è la stessa base per cui Macron è in prima fila per la web tax europea, contro le cose. Lui ha proprio nel mirino le 4-5 over the top americane, è una visione iperdirigista. Quando poi approfondiremo sulla Germania, vedremo se anche la Germania sarà iperdirigista o un po' più liberista nella formazione del governo. Però è una visione, auguri all'Italia, perché l'Italia non ha forza critica sufficiente, secondo me, per un'impostazione di questo tipo. Uno, due, io ho notato che Macron ha preso alla sprovvista nel bilaterale con l'Italia Gentiloni, offrendo all'Italia immediatamente di mettersi a lavorare per un trattato bilaterale come il trattato dell'Eliseo, che verrà aggiornato tra Francia e Germania all'inizio del 2018, e Gentiloni non gli ha risposto. I giornali italiani non se ne sono reso conto, o meglio, non hanno voluto sottolineare che noi non abbiamo avuto una risposta. Questo dà l'idea di quanto sia intensa e rapida la sfida su una nuova Europa una volta che ci sono le elezioni tedesche e c'è un nuovo presidente francese. A me non piace questa cosa di nazionalismo francese proiettato su un macro blocco commerciale europeo, non mi piace. Credo che la sua idea sul militare non andrà da nessuna parte, perché è fuffa. Spero in una procura unita, spero in quello che ha proposto per una politica dell'immigrazione unita, ma la base di politica economica è una base secondo me molto molto lontana da quello degli aedi di Macron, liberale, eccetera, eccetera, nel suo post elezione. Torniamo. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati qua con la compagnia dei conti della Belva. Renato. E a telefono collegati oggi Mario. Eccoci. E Carlo Alberto. E Carlo Alberto, ciao a tutti. Io comincio dal professore universitario Carlo Alberto, perché all'inizio di questo blocco... Butta male questa settimana, Carlo. Noi dobbiamo partire da un problemino. Questa indagine che ha riguardato quelli di diritto tributario solo perché... L'origine dell'indagine fiorentina era di un ricercatore che aveva partecipato alla classe per le abilitazioni in quelle materie e ha fatto a mie tutto vittime decine di professori, capiscuola di diritto tributario in tutta Italia, indagati, misure cautelari, l'enorme scandalo, la scoperta che però, se andate retrospettivamente dagli anni 90, troverete 15 grandi indagini in Italia avvenute su classi di concorso, abilitazione, chiamata d'associato e così via, in moltissime materie, diritto pubblico, diritto privato e così via. Quindi è una cosa che regolarmente esplode. Ho fatto il conto, in 9,5 casi su 10 tutto in prescrizione, professori rimasti tutti al loro posto, persino Frati, il capo per anni della università a Roma con Parentopoli, non va da nessuna parte, vedremo questa volta. Ma intanto si è creato questa volta un grande dibattito, sono intervenuti alcuni con posizioni abbastanza, tra virgolette, radicali, come Andrea Ichini o come Luigi Marattin, dicendo portiamo fuori le università dal diritto amministrativo omologante, diamogli la libertà di assumere chi vogliono, premiamo, diamo agli studenti l'equivalente delle borse di studio invece che dare finanziamenti ai dipartimenti. E dall'altra parte una levata di scudi. Abbiamo con noi il professor Biagio Giovanni, che per esempio ha scritto sul Mattino: beh, no, difendiamo l'università pubblica. Grazie di essere con noi, professore. Grazie a voi. E sul Corriere della Sera ieri Carlo Rovelli, i cui libri di divulgazione scientifica sulla fisica sono strappati per le mani, per fortuna in questo paese ancora troppo antiscientifico, ha fatto un articolo molto lungo del tutto analogo a quello del professor De Giovanni. I professori meritano più fiducia, difendiamo l'università pubblica. Carlo Alberto, tu come la vedi? È che siccome non c'è competizione a valle sull'output, cioè sul titolo di studio che è normalizzato, standardizzato ed è ex lege, come dire, parificato, succede che non c'è neanche competizione a monte, quindi sulle intelligenze, sui talenti, e si privilegia in questo paese la riproduzione della conoscenza per classi, per scuole, per baronati, e non la produzione, quindi la ricerca, quindi la competizione. È chiaro che se io tolgo il tappo a valle, caro Oscar, cioè abolisco il valore legale del titolo di studio, sposto il finanziamento, come dicono giustamente Andrea Ichino, Luigi Marattin, dal docente al discente, quindi da un voucher per l'istruzione superiore, che lo spenda, mio Dio, a 20 anni sarai capace di sceglierti i professori, che lo spenda dove vuole. Se introduco la competizione a valle, è chiaro che poi posso riportare la competizione a monte sui fattori di input, quindi sul talento, e quindi aprire una competizione per i migliori talenti. A quel punto però non è avere più controlli, più procure, più denunce, ma avere più mercato a valle sui titoli di studio e più mercato a monte sui talenti. A me sembra una cosa semplice. Beh, io sono in università e queste cose le ha scelte 100 anni fa, no? Però la tua università è fuori dal perimetro pubblico. Per esempio, il professor Raffaello. Ci sto benissimo. Il professor Raffaello Lupi, che è di diritto tributario, ha obiettato a queste posizioni. Posso anche abbracciarla, tenete conto che Raffaello Lupi viene da un'evoluzione politica fortemente di sinistra, però devo notare che nel breve e nel medio noi non abbiamo qui una cultura nel privato come quello che nel mondo anglosassone, per via anche di potenti incentivi fiscali, ha sedimentato nei secoli le tenure, cioè le cattedre con i nomi dei fondatori delle dinastie. Qui sarebbero tutti di manica corta e il sistema dell'università, per come è oggi in Italia, andrebbe a gambe all'aria. Intanto, dice il professor Raffaello Lupi, facciamo una riformetta che si può fare e che non si fa per colpa dei professori. Cioè, per esempio, dice, riuniamo le discipline sociali, quindi l'economia, il diritto tributario, eccetera, eccetera, che hanno visto proliferare le classi in un unico corpo, e così avremo per esempio più di 2000 docenti, non i 169 di diritto tributario, e il che renderà molto più complicato gli scambi tra accordate. Professor Biagio De Giovanni, in cosa secondo lei è irrealistica la posizione di chi dice mettiamo più mercato invece che più controlli pubblici ancora? Ma questa parola mercato nell'università non mi piace. Insomma, noi abbiamo l'università pubblica in Italia, che si sviluppano anche delle università private, può andare benissimo per il futuro. Però dobbiamo ragionare sull'università pubblica. E l'università pubblica, i concorsi che si fanno nell'università pubblica, adesso c'è questa inchiesta, ci sono state altre inchieste, sì, è evidente che possono esserci nepotismi, che possono esserci, come si chiamano, cordate, ma non dimentichiamo che il concorso universitario non è mai stato un concorso come avviene per le poste o per la dogana, ed è evidente che c'è una scelta che legittimamente molti professori che stanno in commissione fanno, nel confronto, diciamo, e nel tentativo, anche nello sforzo anche di costituire una propria scuola. Questo è del tutto legittimo, non è una questione baronale. Io ho scritto, mi è capitato di scrivere, se un procuratore avesse intercettato Norberto Bobbio che programmava i concorsi di filosofia del diritto per i prossimi 10 anni, non un anno, per i prossimi 10 anni, lo avrebbero arrestato probabilmente. Comunque lo avrebbero... aspetti professore, perché diamo la possibilità di capire meglio a chi è a casa e non è esperto ovviamente di queste cose. Lei è stato anche rettore dell'Università, sì, Orientale di Napoli, sì, e ha insegnato filosofia politica, e la fattispecie per cui le procure indagano non è quella, per così dire, della segnalazione e quindi del desiderio di ogni caposcuola di avere un sequitor nell'insegnamento e nella ricerca nei propri dipartimenti, ma lo scambio improprio avvantaggiando persone che hanno titoli inferiori rispetto agli abilitati. Se questo avviene, intanto titoli inferiori e titoli superiori, è diventato un inferno questo per la riforma che è stata fatta. Oggi lo sottolineava molto bene Rovelli sul Corriere della Sera, e cioè ha detto con questa normativa assurda per cui c'è una certa come si fa più a giudicare? C'è una quantità di pubblicazioni che prevale sulla qualità. Se io ho scritto un libro geniale e un altro ne ha scritti 3 niente affatto geniali, siccome quello ha le cosiddette mediane a giusto, cioè alcuni criteri quantitativi che sono stati individuati nell'ultima riforma, vince quello. L'università sta nei guai per le risorse, sta nei guai per la burocratizzazione drammatica. E naturalmente io poi, per carità, la magistratura indaghi se ci sono reati o se ci sono disfunzioni grosse amministrative, faccia il suo dovere. Non ci dimentichiamo che l'università italiana, che è stata una grande università e che tuttora ha dei grandi luoghi di ricerca, è senza risorse. E quindi quando si vuota un posto di ricercatore c'è una folla intorno di decine e decine di concorsi, è difficilissimo dire questo è meglio di quello. Naturalmente, cioè, quando ci posso sono... spiegare qui e mi dica se ho capito bene, mentre per alcune discipline la bibliometria per esempio come metro oggettivo, cioè l'impact factor del numero di pubblicazioni per prestigio delle riviste su cui escono, il numero di citazioni ha più senso, per esempio nelle discipline mediche i journal sono mondiali, ed è per altre discipline non è così. Assolutamente no, io mi nella mia esperienza antica naturalmente si vinceva il concorso con un libro geniale, non c'era bisogno di tenere ferme le cosiddette mediane, per cui non so, bisogna aver scritto 3 articoli su una rivista di rating A, bisogna avere 50 citazioni, ma che modo di ragionare qui? Mi scusi la passione con no, la quale parlo. No, per questo io l'ho vista che la passione c'era, l'ho letta e la conosco. Cavolo, insomma, io sto da 50 anni all'università, non ho mai visto una... E naturalmente in questo quadro, bisogna anche dirlo, perché naturalmente io non nego affatto questo, in questo quadro così difficile a decifrarsi, sia, ripeto, per la possibilità di un effettivo e vero giudizio, sia per la scarsità estrema di risorse, per cui quando arriva un posto succede, si affolla di candidati di tutte le sue, si capisce che possono succedere nepotismi, possono succedere preferenze, possono succedere cattive cordate. Io dico cattive cordate perché, come le dicevo prima, è normale che un professore universitario voglia il proprio allievo, non, è sempre così si forma la scuola. Naturalmente è normale nel mondo della burocrazia, nel mercato sceglie il cliente, non sceglie il produttore qual mercato, è il quale migliore, mercato? Mi scusi. No, vabbè, io la penso diversamente, perché io penso che è possibile individuare dei criteri qualitativi se si esce da questa drammatica quantificazione dei titoli, questa titolografia, per cui giustamente oggi diceva Rovelli sul Corriere, si obbliga a scrivere molto e male e si condanna, si svantaggia chi ha scritto poco e bene. E mi pare che questa è una forma di sotterramento di quella che è stata l'università. Io ho 86 anni, no, quindi no, probabilmente parlo di un'altra università. No, ma noi non facciamo questioni. Scusi, se l'abbiamo invitata non è mica perché la consideriamo. No, ma io sto difendendo la mia posizione. Esatto, ma per questo infatti le per me è molto interessante, perché lei la difende andando al punto e con passione. Le faccio una domanda, anche qui pensando a chi è a casa. In queste settimane abbiamo fatto molte trasmissioni sviscerando anche la parte mobile e la parte fissa del fondo di finanziamento annuale universitario. Lei, nella sua visione coerente, eleverebbe, e se sì, a quanto la parte mobile? Perché è il 20% attuale a malapena rispetto al totale del fondo, che si gradua con criteri che anche questi vengono poi spesso contestati dalle università. Abbiamo fatto una trasmissione spiegando qual è il criterio che sono cambiati quest'anno, e le università del nord, abbiamo ospitato i rettori, sono insorti. Lei l'alzerebbe la parte mobile sui risultati delle università per finanziarle col fondo pubblico nazionale? Fare le quantità, ma sicuramente io posso dirle che le nostre università meridionali, sulle quali naturalmente poi c'è una valutazione negativa che nasce all'interno di parametri obbligati, perché quando il bilancio dell'università è praticamente interamente occupato dal pagamento degli stipendi e quando non arrivano concorsi e non arrivano neanche assegni di ricerca, i ragazzi se ne stanno andando. Questo è il punto vero. La chiave dell'università italiana è il fatto che, come dire, nella crisi di questo decennio si è detto che il sistema educativo, scuola e università, è stato trascurato, perché è stato quello che è stato più sacrificato, perché naturalmente, siccome riguarda il futuro, ed è molto difficile parlare del futuro quando c'è un presente che emerge e dei problemi drammatici che emergono, è stato trascurato. Ma noi infatti immediatamente adesso proseguiamo con un blocco proprio sul fatto che è stato trascurato, per esempio, anche un disegno dell'offerta formativa più professionalizzante. Detto questo, professor Gianni, noi l'abbiamo chiamata apposta perché questo suo punto di vista fosse ascoltato. Noi, minoranza, la pensiamo diversamente. Sì, cioè io devo dire la verità. Non solo è legittimo, ma si tutelano le minoranze nella democrazia. No, ma le minoranze siamo noi, perché il suo punto di vista secondo me è largamente maggioritario, e per questo non mi nascondo che è importante ascoltarlo. Il problema è che lei lo difende anche in maniera evolutiva, alcuni lo difendono in maniera secondo me regressiva, cioè che credono anche che sia giusto diminuirla la parte mobile del fondo di finanziamento, perché abbiamo sentito qua voci questa settimana che ci hanno detto il contrario, perché altrimenti significa condannare la possibilità di università nel sud. Io non credo che sia così. Detto questo, vedremo in termini evolutivi. Io non credo che sia devo dire, le indagini penali la cura, questo è poco ma è sicura, e devo dire la verità, credo anche che l'idea di Raffaele Cantone di mettere responsabile anticorruzione in ogni università è un'idea un po' naif, insomma, non è questo il punto. Mentre invece, caro Carlo Alberto, sarà lunga, per chi la pensa come noi, riuscire a vincere le obiezioni che, come vedi, hanno un fondamento con il professor De Giovanni. Che dici, Carlo Alberto? Ma dico che l'effetto è ovviamente quando i mercati sono chiusi e quindi sono endogeni, quindi sostanzialmente appunto la normativa nazionale, è chiaro che non ha sbocco. Quando i mercati sono aperti, per cui sei sul mercato globale, la chimica, l'ingegneria, l'economia, è evidente che quel genere di ragionamenti sono corti. No, perché deve essere chiaro a chi ci ascolta che il ragionamento di Carlo Alberto, di Andrea Ichino, di Luigi Maratin si applica a università non per questo che diventano private, ma pubbliche, cioè Berkeley, UCLA negli Stati Uniti sono pubbliche, non sono però sottoposte al diritto amministrativo, non c'è l'eguaglianza per così dire, sono fondazioni e concorrono liberamente, oltre alla quota di finanziamento pubblico, con totale libertà a una quota di finanziamento privato che a quel punto ti arriva solo su ranking comparato di quanti ne sforni di ottimo livello immediatamente impiegati con la più alta retribuzione. E questo è uno dei punti purtroppo su cui riflettere nel nostro paese. Intanto grazie al professor Biagio De Giovanni, torniamo tra poco. Soundcheck, il suono della musica, di Gegé Telesforo. Vi aspetto allora al Soundcheck di Radio 24 il sabato e la domenica a partire dalle 19.15 in collegamento con The Groove Master Studio per un pieno di grande musica. Tutta la nostra migliore discografia e tanta musica dal vivo, sempre soltanto su Radio 24. Della belva. Eccoci qui tornati con i compagni dei Conti della Belva, come sempre Oscar, Renato e Mario e Carlo Alberto. Ci siamo entrambi? Sì. Ci siamo Oscar. Perfetto. Tenacissimi. Allora, dopo essere partiti con una riflessione e vi abbiamo proposto due punti di vista radicalmente diversi su come rimediare i mali dell'università in quanto a cooptazione dopo l'inchiesta in corso sull'abilitazione per diritto tributario e scienze delle finanze, andiamo al punto che interessa più a noi, perché il punto è la carenza dell'offerta formativa. Ne posso parlare anch'io, della finalmente. Scuola terziaria e post terziaria, perché caro Carlo Alberto, il totale degli iscritti dalla prima matricola ai laureandi delle discipline attinenti a Industria 4.0 nel nostro paese arriva a malapena un po' meno di 60.000. Significa che alle imprese ne arrivano, se va bene, per i prossimi 5 anni non più di 8.000 l'anno, e invece ci sarebbe bisogno di un po' di più. E caro Carlo Alberto, come si fa? Bisogna ridiscutere i curriculum, bisogna fare prodotti più rapidi, che fanno più accesso al mercato, bisogna portare a bordo anche le imprese che ci devono aiutare a formare i giovani, perché non basta la produzione interna dell'università, abbiamo bisogno di prendere a prestito docenti. Aspetta, quindi... perché noi abbiamo appunto un ospite che abbiamo chiamato esattamente per fargli questa domanda, stante che possiamo stare sicuri, cari ascoltatori, che ciò che serve all'economia, alla crescita, alle imprese italiane, a maggior ragione Industria 4.0, nei prossimi anni non avrà soddisfazione da parte dell'offerta formativa pubblica. No, mancano attualmente, si conta tra i 25.000 e i 30.000 ingegneri da assumere nei prossimi 6-9 mesi, cioè sono cifre di questa portata. Allora è con noi il direttore delle risorse umane del gruppo Marcegaglia, quindi stiamo parlando di un gruppo che lavora nell'ambito della grande filiera della siderurgia. Non stiamo parlando ovviamente della produzione con alto forno, ma stiamo parlando della filiera degli specializzati e così via. E a Maurizio Dottino, che è direttore delle risorse umane, io le faccio la stessa domanda dove si era fermato il professor Carlo Alberto Cannavale Maffè. Voi che fate per quelli che servono a voi, Dottino? È vero assolutamente che in Italia c'è una carenza di laureati tecnici, c'è una carenza di laureati in generale, ma di laureati tecnici ovviamente in modo particolare. Ci sono alcuni centri di grande eccellenza, nel senso che poi la qualità dei laureati italiani è in alcuni casi elevata, ma c'è una carenza di numeri. Questo risulta anche a voi, è vero questa cosa? Assolutamente sì, nel senso che è vero sia della qualità dei laureati sia dell'assoluta carenza. E senza dire una banalità assoluta che vale per gli ultimi decenni, lo scollamento che in realtà c'è tra università e mondo delle imprese in termini generali porta anche al fatto che la tipologia del laureato che esce, seppur di qualità, è spesso abbastanza distante da quello che poi nelle imprese viene richiesto e viene utilizzato. Quindi la carenza numerica e questo scollamento, perché al di là dei fenomeni inseriti, degli space curricolari e quant'altro, c'è un certo scollamento di fondo nell'impostazione. Pensiamo banalmente a una grande fetta delle imprese italiane che hanno attraversato gli anni peggiori della crisi guardando all'estero. Ancora oggi c'è una fetta importante di laureati che esce dall'università che ha una carenza di competenze linguistiche abbastanza elevata. Questo è un limite importante per chi magari ha quote di esportazione molto importanti e quindi anche realtà produttive all'estero o comunque attività tecniche commerciali da guardare oltre frontiera. cosa si fa? I tecnici, quegli istituti industriali, ve li riformate dopo che li avete assunti? Mi ritengo, nel senso che siamo fortunati perché la dimensione dell'azienda ci permette di avere dei percorsi formativi interni che, lavorando sulle selezioni sostanzialmente, sugli soft skill e ovviamente sulle competenze acquisite, ma che sono competenze teoriche, poi prevediamo dei percorsi di formazione interni ed è l'unica soluzione per riuscire a riadeguare forza lavoro giovane, di cui abbiamo bisogno, come tutte le imprese hanno bisogno, non parliamo poi della necessità di ricambio generazionale per le evoluzioni 4.0, ma tutte le imprese hanno bisogno di ricambio generazionale per riadeguarli a quelli che sono poi gli impieghi, che non sono più ovviamente gli impieghi classici, la mansione, l'attività che è ripetitiva, ma dove c'è bisogno di una grande capacità trasversale di comprensione e di problem solving trasversale, al di là anche di quello che uno ha studiato, per cui una fetta dei laureati non è preparata. Poi ce n'è una fetta molto ristretta, appunto numericamente insufficiente, che ha un livello di preparazione che la mette nelle migliori condizioni. Ma nel complesso del sistema delle imprese i numeri sono piccoli. Io devo dire la verità, caro Carlo Alberto, do una gran colpa a voi accademici, perché, scusami, sintesi, io l'ho visto in questi anni nei sistemi territoriali di Confindustria. I sistemi territoriali di Confindustria si sono dati da fare per creare la bellezza di 93 fondazioni sul territorio, cavolo, per gli ITS, cioè per il ciclo avanzato secondario di istruzione tecnica, l'alta accademia di quello che dovrebbe essere l'istruzione tecnica, alla quale in Germania sono iscritti 760.000 studenti. Malgrado le 93 fondazioni territoriali che si sono messe in piedi, il totale degli iscritti ai pochissimi ITS italiani è a oggi di 7.600. Dove cavolo vogliamo andare con questi numeri, Carlo Alberto? I numeri sono purtroppo un problema sia di input, cioè non siamo abbastanza attrattivi, sia di output, il ciclo di produzione del capitale umano è lento, noi non abbiamo bisogno solo di percorsi lunghi, capisci, cioè delle lauree quinquennali, abbiamo bisogno anche di persone brevi di riqualificazione, quindi nel brevissimo, mi spiace, ma il problema non è dare più laureati, ma è riqualificare quelli che ci sono. Carlo Alberto, quando ce l'ho con voi e che voi non spiegate quando andate in televisione, eccetera, eccetera, alle famiglie italiane che l'istruzione tecnica non è l'istruzione dei poveri, come continuano a essere convinti, bombardati da decenni di impostazione viva i licei, abbiamo moltiplicato i licei, dovevamo secondo me ridurli e ridare abbiamo dignità e importanza a chi se esce da un ITS ha un posto di lavoro in cui se lo contendono e guadagna di più del laureato deluso. Hai assolutamente ragione, e francamente è una battaglia che io personalmente faccio andando nelle scuole superiori dicendo perché non può farlo Dottino questo, perché altrimenti gli dico, se ci va Dottino, cioè la grande impresa, sai chi pensa, che cosa pensa chi lo ascolta in televisione? Ma guarda, vuole semplicemente dei tecnici che paga poco. Il pregiudizio antiimprenditoriale è ancora forte. Se lo dici tu, forse, non lo so, ma se lo dici tu o lo diceste voi, sarebbe diverso. È vero, però è anche vero che le imprese devono essere più chiare nei profili che necessitano e nella loro offerta. Ma non lo sappiamo, aspetta, sentiamo Dottino. Dottino, sbaglio molto, a vedere la cosa? No, è molto corretto. Cioè, esiste un pregiudizio a priori delle famiglie rispetto alla formazione tecnica, che porta a creare un universo mondo di ragazzi che non avranno sbocchi o che hanno poi sbocchi assolutamente iper precari, esatto, e assolutamente scollegati da quello che hanno studiato. Questo credo che sia un fenomeno culturale su cui, devo dire, Confindustria ha cercato di intervenire, su cui in qualche misura a livello locale le imprese cercano di intervenire. Ma sì, ma il problema è che l'impresa ha una diffidenza se lo fa lei, mentre invece le altre componenti consapevoli delle classi dirigenti italiane dovrebbero darsi da fare. Io critico gli imprenditori su tante cose, ma su questo vedo dagli ascoltatori come reagiscono quando faccio transizione su questo. Stai facendo l'arruolatore di depressi operai. Gli operai che la gente crede ancora esistano in catena, non esistono più, questo è il problema. Non esistono più, il nostro operaio medio ha uno stipendio superiore a quello di un impiegato bancario. Appunto. Oggi la situazione è questa, nel senso che mentre una volta c'era un salario notevole, oggi si è totalmente invertito. Il nostro operaio che lavora guadagna più di un impiegato bancario. Certo. Ecco. Anche però perché le bancari ne abbiamo troppi e gli operai specializzati troppo pochi. Esatto. Assolutamente sì. E continueremo purtroppo quello che si vede nei numeri, no? Nella contabilità pubblica che ci è nota dell'offerta formativa. Continueremo così per anni. Non bastano i super incentivi, perché sennò le imprese comprano macchinari e sensori e poi non c'hanno la gente per farne il miglior uso. Tanto grazie anche a Maurizio Dottino. Adesso noi ci sentiamo dopo il giornale radio. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Dai Deborah, racconti la borsa tutto il giorno, dammi un titolo. È meglio il petrolio che sale o il dollaro che scende? È arrivato, se lo sapessi avrei gran soldi in Svizzera, per cui mi servirebbero i tuoi consigli per fare la voluntary disclosure. La voluntary disclosure è meravigliosa, ma ne abbiamo tante di questioni da chiarire agli ascoltatori. Sì, perché non sono temi difficili, noi dobbiamo essere autorevoli. E leggeri, sai, dobbiamo parlare con quella certa autorevole leggerezza. Bravo! Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Tutti i giorni alle 11 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Conti della Belva. Io lo so, ma non lo dico. Ed eccoci tornati, cari ascoltatori. Questa è la sigletta del nostro spazio di approfondimento per i diritti dei consumatori ed è la seconda volta che già lo applichiamo ai contribuenti. Perché lo applichiamo ai contribuenti? Perché questa settimana abbiamo toccato l'apice di una vicenda che era partita male, si sta trascinando peggio. Il bello sarebbe pensare che finisse, ma non finirà. Però intanto bisognerebbe sospenderla. Stiamo parlando degli nuovi adempimenti trimestrali dello spesometro, le comunicazioni obbligatorie e IVA. Siamo arrivati alla terza proroga. Questa settimana il sistema pubblico dell'Agenzia delle Entrate gestito dalla SOGEI si è sfasciato come un carrozzone, incapace di gestire il traffico, incapace di tutelare la sicurezza dei dati. Ciascuno poteva vedere gli altri, una roba indecorosa. Siamo arrivati alla nuova proroga 5 ottobre, ma chi rappresenta i commercialisti ha detto no, non li avete risolti i problemi, sospendete, evitate questa figuraccia che oltretutto fa commettere reati. Allora, detto tutto questo, nel paese che vuole rinazionalizzare la rete Telecom perché solo il pubblico sa garantire la sicurezza strategica dei dati, questa è la prova data ai contribuenti e a chi a fianco dei contribuenti, cioè i loro collaboratori, i loro professionisti che sono la controparte tra l'incudine e il martello, cioè il contribuente e lo Stato che sta impazzendo per questa roba. Lo Stato non ci ha sentito quando lo abbiamo detto fin dall'inizio da questi microfoni, io lo urlo fin dal primo momento, ed è una cosa indecorosa. Oltretutto è uscita una circolare dell'Agenzia delle Entrate sui meccanismi attraverso cui pagare, perché stanno già arrivando le lettere per chi non è, che contesta chi non è stato in regola, e oltretutto si aggravano le sanzioni per chi o non risponde o non paga entro 30 giorni, nel mentre lo Stato dà questa prova indecorosa di totale disorganizzazione e di violazione della legge, dall'altra parte picchia alla porta dicendo mi paghi di più e ti aumento pure le sanzioni. Allora, come stanno le cose? Con noi Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Focus. Ci dica se c'è qualche prospettiva ragionevole secondo lei di sospensione o continueremo di fronte a questo spettacolo? Beh, lei ha sintetizzato la situazione tragica che stiamo vivendo tutti noi professionisti e di riflesso i nostri contribuenti. È una vergogna, come ha già anticipato, perché quindi gli era stato già anticipato, cioè tutti questi dati, ma li sapete gestire, cioè 6 milioni di dati che volete ricevere gratis, dai contribuenti, si fa per dire, dai professionisti, perché ovviamente i software ve li dovete procurare voi, pagate voi, pagate, bravo, è gratis. Gratis loro li vogliono, gratis, cioè almeno pagassero il professionista che gli fa da segretario, neanche questo, e gli avevamo detto, ma vi servono veramente questi dati? Guardate che complicate. E loro, siccome sono presuntuosi, dice, beh, ma noi abbiamo avuto già la prima comunicazione della liquidazione, quindi siamo in grado di assorbirle, e già avevamo avvertito che vi erano dei disagi. Ma è veramente vergognoso il fatto che un contribuente che aveva le credenziali praticamente di Enfatel, con un codice fiscale che poteva essere il suo, il mio o di un titolare di uno studio, poteva tranquillamente accedere alla banca dati, quindi di quello studio. È una cosa vergognosa. Gli è stato detto, allora, 2 giorni prima della scadenza si blocca il sito, perché non l'avevamo, cioè gli avevamo già anticipato al giovedì, loro hanno aspettato il sabato per bloccare l'operazione, quindi 2 giorni prima della scadenza non si poteva più quindi lavorare, e i professionisti stavano tentando di praticamente rispettare l'adempimento. Dopo 4 giorni se ne escono e ci dicono che avevano risolto il problema, ma non era vero, perché pensi un po' cosa hanno fatto sti geni. Tu praticamente quindi entravi come facevi prima, che non avresti dovuto farle, dice, abbiamo inserito un alert, quindi è come dire che se il rapinatore va in banca allora va scritto attenzione che non puoi fare la rapina. Cioè, questa è cosa assurda, sembra che siamo su scherzo a parte, ma è la verità, è una vergogna. Uno, ed è incredibile che non un solo alto rappresentante dell'amministrazione tributaria abbia offerto le proprie scuse. Assolutamente. Poi dico, no, ecco, ha toccato un altro, dico, ma perché, dico, in uno stato democratico, almeno che io sappia, poi sa, ti svegli la mattina e le cose cambiano, non c'è una dittatura, è uno stato democratico, quindi il contribuente dovrebbe essere al pari della, quindi del fisco, dell'amministrazione finanziaria. Perché se lo contribuente sbaglia rischia di perdere agevolazioni, sanzioni, e loro si possono permettere quindi tutto, cioè il mancato proprio rispetto delle regole ordinarie. E poi le dico un'altra cosa che lei ha già detto, no? Ma le sembra normale che mi parlano di compliance, che bisognerebbe capire cosa vuol dire lo compliance? La compliance sa cos'è? Che ti arriva una lettera e c'è scritto gentile contribuente, punto, e finisce là. Perché un'altra vergogna, se un contribuente, ecco che non ci capiamo, se un contribuente non versa l'IVA, quello non è un evasore, quello è un povero Cristo che ha dichiarato e non è riuscito a pagare, perché l'evasore, la cosa che non ha capito sta gente, non fa la fattura, non fa la comunicazione, lo spesometro. E loro cos'è che hanno fatto? Cioè loro così vogliono combattere l'evasione. Il povero disgraziato che ha lavorato, ha fatto la dichiarazione, non è riuscito a versare l'IVA, però gli si diceva, il professionista diceva, vabbè, adesso vediamo con calma, puoi fare ravvedimento, hai già anticipato che si tratta di quello strumento che ti consente, anziché di pagare la sanzione piena del 30%, in misura ridotta in proporzione a quando la paghi. Ed era un sostegno praticamente al contribuente, una sorta di autofinanziamento. A chi era corto di cassa, esattamente. Ecco, loro cos'è che hanno fatto? Hanno richiesto questo adempimento trimestrale, prima ce ne stava uno, perché adesso stiamo andando verso la semplificazione e sono diventati 4 comunicazioni, comunicazione trimestrale del primo trimestre 2017. Io quindi gli dico qual è la risultanza dell'IVA, cioè vuol dire che se un contribuente aveva un debito IVA il primo trimestre 2000 euro, io glielo dico, e quindi non sono evasori, ti sto dicendo qual è la risultanza. A luglio arrivano le prime lettere, dice guarda che forse, non so se ti sei sbagliato o ti sei scordato, non hai versato l'IVA. Penso, uno si scorda di versare l'IVA a luglio, dopo neanche 2 mesi, cioè quello che hai già anticipato, che è vergognoso, dopo 2 mesi arriva una lettera che ti toglie la possibilità di fare il ravvedimento. E quello che era di pochi punti percentuali diventa, e se paghi entro 30 giorni, un terzo, quindi il 10% del 30%. Esatto. E se non paghi, ti arriva la cartella. Esatto, cioè, esatto. E questa la compliance. Ma questa è la vera verità per cui hanno fatto gli adempimenti trimestrali. Aumentare gli introiti nei delta temporali. Solo questa è la verità di questa operazione. E perdonatemi, siccome già lo vedo da come state reagendo, stai difendendo come sempre gli evasori. Chi fa le dichiarazioni Non è un evasore. Ficcatevelo in testa. L'Agenzia delle Entrate, Orfini, Dio, la Madonna, Renzi, la Boschi possono dirvelo, ma se voi ci credete siete sciocchi, perché vi stanno truffando, stanno dividendoci. Chi fa la dichiarazione sta mettendo nelle mani dello Stato i motivi e i conti in base ai quali il proprio obbligo fiscale si fonda. Quindi fa l'esatto contrario dell'evasore. Ma se mi levi la possibilità di pagare quando ho cassa e vuoi incastrare e incassare, diventerà ogni settimana tra un po', vuol dire che sono tuoi i problemi di cassa, non il mio problema etico dell'evasione. Però tanto noi continueremo a urlare, caro Gigliotti, ma non cambia niente. Esatto, cambia niente. Perché questo è il problema. Tra l'altro c'è un disallineamento pazzesco fra i dati che tu presenti sulle denunce IVA e i dati che devi mettere nello spesometro. Stanno impazzendo da me in amministrazione per cercare di allineare le cose. Poi noi che abbiamo una cosa complicata perché esportiamo moltissimo. No, ma io sono scandalizzato per la qualità dell'informazione italiana, perché la debacle che è avvenuta è passata sotto silenzio. La violazione di legge, questa cosa ridicola delle proroghe di settimana in settimana, è una roba da prima pagina e da spiegare al pubblico generalista. Se non lo fai, siccome i direttori non sono degli sprovveduti, vuol dire che sei connivente nell'anima, vuol dire che il tuo editore preferisce non avere il fegato di dire all'amministrazione tributaria che è banditesca. E a me come giornalista mi caccino pure se penso che esagero, visto che la cosa riguarda anche organi di informazione di un gruppo a cui sono vicino. Però io penso che su queste cose un paese civile sa dire allo Stato come sta sbagliando, che sbaglia, non per principio, ma questa volta è una prova veramente clamorosa, dura da buttare giù, perché sono i fondamenti residui della civiltà tributaria che vengono meno ogni anno sempre di più, in un vortice, in un abisso di vergogna. Grazie a chi come Antonio Gigliotti leva la voce, tanti altri suoi colleghi non sono più nemmeno in condizione di farlo, visto la tra virgolette pressione a cui sono sottoposti. Grazie a Gigliotti, noi torniamo tra un minuto. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, container, con Massimo De Donato. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Questo è da sfascio? Sì, da sfascio. Assolutamente. Decisamente da sfascio. Decisamente da sfascio. Nessuna automobile sfugge a questo ineluttabile giudizio universale. È una legge economica e psicologica. L'industria dello sfascio è la più piccola industria che prospera ai margini del mondo delle automobili, il simbolo della nostra furia di superarci e di fare a pezzi il passato. Allora, come sapete, cari ascoltatori, questa è la sigletta che usiamo quando facciamo ricorso a un personaggio apparentemente rottamato, ma perché pensiamo all'opposto, che a volte la cosiddetta rottamazione sia uno slogan vuoto e sbagliato, perché invece ci sono persone che in passato, come anche l'ospite di oggi, sono state sia dei civil servant dello Stato e contemporaneamente hanno lavorato in grandi gruppi privati. Quello di oggi è stato tra l'altro persino vicepresidente dell'IRI, ma è stato dirigente generale del bilancio, è stato nel nucleo di valutazione degli investimenti. Quindi insomma, stiamo parlando di una personalità che ha visto dall'alto e dentro, anche è stato commissario in grandi gruppi che avevano problemi industriali di riconversione. Quindi è un studioso delle imprese italiane e ovviamente anche professore universitario, insegna economia applicata alla Sapienza di Roma. Ma perché lo chiamiamo in causa? Lo chiamiamo in causa perché, con la stessa acribia con cui continua a esaminare per esempio i conti di Alitalia e le scrive sui giornali e così via, gli abbiamo chiesto un'opinione su una cosa che a me personalmente non mi torna proprio, cioè l'accordo celebrato dai giornali italiani tra Macron e Gentiloni sulla vicenda Fincantieri STX, cioè i cantieri Saint-Nazaire, L'Italia era subentrata al 66% detenuto dal gruppo sudcoreano che è andato per aria. Il giudice, il curatore della procedura concorsuale al Sud Corea vede l'offerta italiana e affida quel 66% a Fincantieri. Macron, eletto, butta tutto per aria, dice non se ne parla, non potete comandare, 50-50. Nasce questa intesa che viene presentata alla stampa italiana come l'intesa in cui gli italiani avrebbero vinto, perché 50-50, c'è l'1% che viene dato a Fincantieri per esercitare il controllo, ma è in prestito per 12 anni. Dopodiché si dice ci sono scansioni temporali in cui la gestione solo a carico dei Fincantieri verrà sottoposta a delle verifiche da parte dei francesi. Il consiglio di amministrazione è 8-4-4. Dopodiché si dice anche comunque la Francia ha diritto di recesso quando vuole e ha diritto di veto in assemblea su tutte le delibere straordinarie. Allora, di fronte a una mole di vincoli di queste proporzioni, delle due l'una: o credono che il mercato mondiale dello shipping, della cantieristica, rimane immobile per 12 anni, oppure questi vincoli così penetranti per 12 anni vincolano solo Fincantieri nella sua capacità di essere di fare una gestione di sviluppo rispetto agli sviluppi di un mercato che è ipercombattivo. A me questa cosa non mi convince. Vedo in questo accordo tutti i semi di un contrasto inevitabile in cui in vantaggio sono i francesi. Faccio un esempio: se sommate, stiamo parlando della parte civile, i due cantieri hanno diverse expertise, ma di grandissimo pregio nelle realizzazioni di grandi PAX, delle navi grandi, le più grandi, quelle di maggior tonnellaggio nel settore della croceristica. Stiamo parlando di navi che valgono tra i 600, gli 800, persino 900 milioni di euro l'una. Cosa succederà se qualcuna delle commesse in arrivo verrà giudicata dai francesi e contestata con inadempienze italiane, che l'armatrice che l'ha ordinata si rivarrà su Fincantieri, non 50 e 50, mentre invece il diritto di recesso può avvenire con 80 milioni dati a Fincantieri dai francesi. Io non ci capirò niente, ma questo accordo non mi piace. Però abbiamo chiamato appunto il professor Riccardo Gallo, di cui vi ho già scritto detto il palmarès, che saluto e ringrazio per essersi reso disponibile, perché siamo molto interessati a capire lui come la pensa. Intanto buona giornata e grazie di essere con noi. Dunque, cosa penso? Che la cantieristica è un settore difficile. Basti pensare che Fincantieri negli ultimi 5 anni, sommando le perdite, sommando gli utili, prevalgono le perdite, cioè il risultato netto cumulato negli ultimi 5 anni è negativo. Quindi noi pensiamo che Fincantieri sia un gioiello di famiglia, in realtà è una cosa che nel migliore dei casi mantiene un equilibrio di gestione, nel migliore dei casi, altrimenti perde proprio. E questa cosa è già a livello operativo, cioè a livello industriale, prima della gestione straordinaria. Fincantieri ha 20.000 dipendenti circa, 4 miliardi di fatturato, vince le gare, però è schiacciata da una forbice, perché i prezzi delle navi che costruisce e consegna sono risultato di gare a ribasso, diciamo così, mentre fa l'assemblaggio di componenti capreggiata che compra da terzi. Ecco. Quindi, ma questo è storicamente, non è adesso. Sì, è un settore ad alta intensità di capitale, ma a bassissimo rendimento, insomma. Ecco, questa è una cosa. Ora, per rispondere ai dubbi vostri, devo dire che in genere la storia, la scienza delle joint venture paritetiche, diciamo così, porta a seguenti conclusioni. La guida è per bene ed è competente e i due soci al 50% sono distanti dall'operatività, e allora il management bravo, per bene e competente, se ne frega dei soci, fa il bene dell'azienda e l'azienda viene lanciata, e quindi non è un ostacolo la pariteticità dei soci. La seconda cosa è se invece c'è una riserva mentale al momento in cui si mettono insieme i due soci pariteticamente 50 e 50. In questo secondo caso abbiamo una storia fatta di ecatombi, di drammi, anche di suicidi nell'Enimont e non solo, di condanne passate in giudicato, di proprio cose terribili. Perché? Perché spesso la geometria è viziata da una riserva mentale. Uno dei due pensa che poi mollerà il suo 50% all'altro e l'altro già sa che se lo sobbarcherà, quindi sobbarcherà i pezzi. Ora, in questo caso, devo essere sincero, non si vede ancora bene. Non si capisce, devo essere sincero, non si capisce. Naturalmente può succedere l'una e l'altra cosa. Diciamo che è un terzo caso, non è uno, non è due, è una X. Perché può succedere? Perché se le cose vanno bene e supponiamo che la società che nasce da questa fusione va bene, decolla, va addirittura meglio della sola Fincantieri, ma allora perché i francesi dovrebbero in futuro annullare l'accordo? Magari lo rinnova, a parte che 12 anni significa 4 mandati di 3 anni ognuno e quindi sono tanti, ma se le cose vanno bene, ma perché i francesi dovrebbero riprendersi, rompere il giocattolo che funzioni? Quindi magari giusta prudenza. Io poi le dico perché ho un elemento aggiuntivo. Se le cose invece andassero male, ma i francesi dice: guardate che ce l'avete già voi, noi ve la lasciamo, e ci mollano, e mollano la parte che adesso ci danno, diciamo, con una certa altezzosità, ce la ecco, lascio. Io questo siete abituati voi, perché Leni si è presa la montagna. No, però professor Gallo, vedendo come è cominciato Macron, molto dirigista e molto tutelante, io a questa seconda parte ci credo poco. Ma perché ci credo poco? Perché siccome entra col 10% nella compagine quello che si chiama Naval Group, e che è stato fino a 2 anni fa di SCN, per chi non segue la cantieristica, è la parte della cantieristica militare francese direttamente coordinata non neanche dal Ministero della Difesa, dallo Stato Maggiore della Marina francese. Ecco, allora, la componente militare su cui l'Italia spera molto, che io ho seguito nei decenni, anche nei progetti congiunti, le fregate FREM, i francesi hanno fatto il cavolo che volevano. Anche sulla scelta delle motorizzazioni, visto che le nostre fregate sono a piattaforme per acque blu, e noi è la prima linea per così le missioni internazionali, e per loro no. Allora, io che i francesi non abbiano motivi per considerare che sulla parte della cantieristica militare, sistemi, piattaforme, eccetera, eccetera, non molleranno di un millimetro, che è una potenza che ha una portaerei come la De Gaulle, ha il dispositivo, ha i sottomarini d'attacco nucleari. Quindi io su questo ho i miei dubbi, però vedremo. Infatti noi abbiamo chiamato il professor Gallo proprio per avere un'analisi precisa. Carlo Alberto, a te cosa dice questo accordo? Ma a me sembra che il compromesso sia l'unico possibile, perché ovviamente l'ipotesi di una divisione non stava in piedi. Io rimango meno preoccupato del fatto che, siccome ripartirà una spesa per la difesa e la difesa diciamo marittima richiederà tecnologie anche diverse, arriveranno nuovi soldi pubblici, verranno sostanzialmente allocati lì, l'Italia potrà partecipare, perché no, a un pezzo delle piattaforme navali che in questo momento sono controllate solo dalla Francia. La cantieristica, scusate, quella civile, quella della croceristica, secondo me è un business poco redditizio e lo sarà strutturalmente, quindi non mi aspetto grandi novità. Io trovo più interessante invece che l'Italia possa partecipare a un pezzo di questo progetto di costruzione di europeo. Giganti europei. E questa è la cosa da cui siamo partiti, diciamo, e ci torniamo. Un po' ottimista su questo. Sono invecchiato di fronte a joint venture saltate per aria, come quelle che ricordava il professor Gallo, e quindi probabilmente per questo sono più pessimista. Intanto, grazie a Riccardo Gallo, noi torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. eccoci qua con Nino Rota e il tocco felliniano. Ma il tocco felliniano perché i Fellini era insieme l'inventiva, il paradosso, la contraddizione, l'ipocrisia di fronte alla morale violata, l'occhietto stretto verso le tette abbondanti di chi produceva seducenti futuri. Tutto questo c'è in questa musica e molto di più c'è nell'Europa nuova. Ora che c'è il voto tedesco, non si sa che governo ci sarà, Macron subito all'attacco, ne abbiamo parlato più volte, ma il problema diventa, ma insomma in questa Macron Merkel c'è roba buona, c'è roba che cambia, che roba è? Rapidissimo giro, perché poi noi andiamo al nostro consueto vate per queste questioni tedesche. Udo Wumpel, che ringrazio di essere con noi. Udo, sì, salve, salve, buongiorno. Ciao, allora, cari amici. Rapido giro, rapidissimo, cominciando Renato Cifarelli, tu che ti aspetti? Chi governa perde, quindi adesso dovranno sviare su altre vie, tu dici? Tu vedi che la Merkel svia, diventa più liberista? No, il problema è che adesso c'ha i liberisti da una parte, i verdi dall'altra, è un bel equilibrio. C'è stato uno scontro in televisione, la Frankfurter Allgemeine ha parlato di incontro al testosterone della maggioranza giamaica tra alcuni leader esattamente di questi partiti, due sere fa. E invece, caro Alberto, che ti aspetti? Io sono contento perché la Merkel ha preso una lezione per la sua insipienza e la sua attitudine conservatrice. Sono contento che siano tornati liberali. La coalizione giamaica, siccome è interessante, foriera di novità, una Giamaica è relativamente più debole, lascia spazio anche al resto dell'Europa. Io trovo che Merkel dovrebbe passare la mano per il bene della Germania e per il bene dell'Europa. Il suo ciclo è finito, se vuoi fare la mediatrice, se proprio Europa, così casa, la vuoi mandare a casa, ma tu sei matto casa. Sei matto, caro Alberto, è proprio matto, è simpatico, mi piacerebbe sapere chi vuole, però insomma. No, lui dice che c'è bisogno di un leader che non sia zoppato, come di fatto è un po' zoppato. È un'altra zoppa, dai, è un'altra ma che ci metti? No, poi sentiamo poi Udo. Vabbè, comunque. Se ci va la Germania non è mica priva di talenti, ma stiamo scherzando. No, comunque io ai liberali io darei lo spazio cervelli cancellierato, perché no? No, vabbè, questa è la ciliegina sulla torta della follia futurista di Carlo Alberto. Mario? Ma io aspetterei a dare per morta la Merkel, perché ecco, da brava democristiana, dagli istinti politici geneticamente superiori, e cambierà ancora una volta pelle politica da camaleonte, probabilmente riuscirà a trovare la quadra anche questa volta. Lasciatemi dire che il mio pensiero veramente alto e grato a Schäuble per la scelta di andare alla presidenza del Bundestag, lo volevo aggiungere, lo volevo solo interrompere perché mi è passato per la testa prima che me lo dimenticassi. Mario, scusa. Certo, no, figurati, poi lo dirà sicuramente Udo, ma io vorrei fare un po' di colore folklore, nel senso che il risultato di elettorale di Alternative für Deutschland nel nostro piccolo triste paese monomaniacale ossessivo compulsivo è stato tradotto con un bel "a stato l'euro", nel senso che la Germania, l'ex DDR, chiamiamola così, talmente impoverita, distrutta, un cumulo di macerie fumanti a causa dell'euro, dei mini jobs, delle leggi ARP, di quant'altro, il vero cadavere nostro nell'armadio di Merkel, che adesso risorgono questi dalla Linke. Non bastava la Linke come testimonianza, diciamo, della DDR, di Honecker, adesso abbiamo anche l'AfD, che visto che gli estremi si toccano, però visto che è stato dipinto, e poi mi taccio, questo quadro di una Germania dove la gente muore agli angoli delle strade, ridotta in miseria, gli indici di povertà scoppiano, roba che a confronto ci sono regioni come Haiti che sono praticamente ricche rispetto alla Germania, ed è stato l'euro, signori, questo ci tenevo a dirvelo, ed anche l'euro nel Regno Unito, è stato l'euro nella vittoria di Trump, è stato l'euro ovunque, anche su Marte è stato l'euro. Va ho bene. Finito, viva Udo. Udo, allora illuminaci tu, che pensi? Ma mi sono divertito, sinceramente c'è tanta verità in quello che hanno detto gli amici. Allora, A cominciare dall'ultimo, io vi do solo una cifra, questa della povertà strisciante dell'est. La zona Laria nella Sassonia, dove l'AfD ha preso fino al 40%, hanno un PIL pro capite superiore a quella dell'Italia. Non ci vivono stranieri, né migranti, nessuno. E poi solo per una cifra, in Germania, tenetevi forte, è ritenuto povero, secondo le statistiche tedesche, se una famiglia di due persone con due bambini ha 2.200 euro netti è ritenuta povera, disgraziata, con il litro di latte che costa 60 cent, latte fresco, e prezzi che sono di solito la metà di quelli italiani. Comunque, sono d'accordo con Carlo Alberto, la Merkel è un'anatra zoppa, è stata veramente, ha preso uno schiaffo fortissimo, 8% dei 41,5 ha perso, e nel Bundestag il suo candidato a leader del gruppo è rieletto solo col 77%, altro sonoro schiaffo. Il problema della CDU, dei democristiani nazionali, non quelli bavaresi, è purtroppo che Merkel negli ultimi anni ha fatto fuori tutti quelli che hanno solo una mediocre statura politica. Intorno a lei sono rimasti persone come il segretario generale che sono veramente mezzi scemi, ci sono rimasti le persone che le portano l'acqua e il caffè e dicono di sì. Dunque per il partito della Merkel è una scelta molto molto difficile. C'è una sensazione, serpeggia un'idea di rivolta, ma nessuno osa alzare la testa perché finirebbe immediatamente decapitata, cioè come è successo a tutti i maschi peraltro nel partito, che erano minimamente Ursula una vera chance, concorrenza. Ursula non ha chance? No, assolutamente no, perché lei non ha gestito bene il Ministero della Difesa, e ci ha provato ma non l'ha gestito bene. E io fossi un italiano, per gli interessi nazionali dell'Italia all'interno dell'euro, dell'Europa, non gioirei assolutamente per la forte posizione dei liberali, e perché loro sono ultracritici verso i partiti dello spreco. Allora loro sono ultra rigoristi. Naturalmente, mettiamoci d'accordo, Weidmann non arriverà mai a essere successore di Draghi perché la Merkel l'ha candidato, ma anche per una questione di bandiera, uno non può cedere immediatamente. Chi è il candidato Weidmann, secondo te, più probabile dei liberali? Ho detto candidato, non il ministro, mi sembra, no, il candidato, allora, alle finanze dei liberali. Guarda, lì c'è anche Kubitsky, ci sono diversi che però sono tutti abbastanza ultra. Dunque Schäuble sarà il padre nobile del Parlamento ed è anche un altro bene per la democrazia tedesca, perché lui è la persona con la maggiore esperienza politica, sì, anche una persona anziana, dunque lui guida comunque il Parlamento con una mano ferma ed è una persona non succube della Merkel, non schiavo suo, si è sempre permesso posizioni diverse, dunque va bene. Va bene anche la socialdemocrazia e l'opposizione, finalmente deve ritrovare le sue origini, deve capire chi è, quale gruppo sociale sarà il suo riferimento, perché si è perso non la politica, ma si è perso anche gli elettori, perché la classe operaia, certo, dove esiste non c'è più, non puoi vivere dei miti dell'Ottocento, e allora sarà una bella trasformazione. Ma per l'Italia, è meglio Kubitsky o Hoyer come ministro delle finanze? Guarda, per l'Italia comunque sì, i tempi saranno duri. L'Italia ha vissuto come al solito nella illusione del quantitative easing, del Marione Draghi che ci salva, c'è la Merkel che da un lato gli danno calci sotto il tavolo negli stinchi, poi sperano che la Merkel in fondo insieme a Draghi li salvi. Le condizioni per questo sono peggiorate, perché tra liberali, AfD, un 25% dei tedeschi ha espresso estreme posizioni di rigore, forse qui chi giubilia per questo. Non ha capito secondo me. Ha proprio capito questo. Senti, no? Ma questo Macron è molto dirigista nel proporre, come diceva Carlo Alberto all'inizio della trasmissione, anche Mario ha scritto un pezzo su questa settimana, una grande logica di blocco rispetto agli Stati Uniti, protezionista, eccetera, eccetera. Questa Germania più liberista va d'accordo col dirigismo di Macron o no? Allora, dirigismo non direi, Macron ha due disegni, uno creare dei gruppi global player con le grandi industrie europee. L'ha fatto adesso con l'STF, dove da un lato concede agli italiani col suo 1% prestato, ma con tutti i rischi, oneri e veri all'Italia. L'ha fatto con Alstom e Siemens, con i treni. E nel caso di Alstom e Siemens ha concesso alla Siemens il comando, perché voi il comando della Siemens in quell'operazione. Certo. Però e anche, anche formalmente come capitali, come fatturato, il 60-40 no? E per la Siemens. Però ha concesso anche lì una industria molto importante. Perché quindi tu dici, parte, su questo la cooperazione, l'intesa viene naturale. Assoluta. Considerate che l'Alstom e i treni sono una cosa importante, ma molto più importante è naturalmente l'Airbus, molto più importante è ADS, dove in realtà c'è una vera collaborazione. Allora, vedremo se questa collaborazione franco-tedesca non sarà anche questo per l'Italia una illusione a cui rinunciare, perché l'Italia pensava di essere diventata quasi paritaria tra un po' prima degli sviluppi di queste ultime settimane. Grazie intanto anche a Udo Gumpel e ci sentiamo tra poco. Sono stanco degli esperti, degli opinionisti, delle menti illuminate, dei polemisti, dei cattivelli e dei buonisti. Non mi interessano i liberati, gli emancipati, i saggi e i timorati. Mi annoiano i cinici, i brutali, gli spregiudicati e gli immorali. Sbadiglio quando ascolto i mangiapreti, come pure i clericali. Non mi convince chi difende i valori come chi inneggia i pastori. Non mi divertono le vergini vestali, ma nemmeno i libertini plateali. Che faccio nel mio tempo libero? Parlo alla radio, ascolto chi mi ascolta ogni giorno per il solo piacere del dubbio. Melog, il piacere del dubbio, dal lunedì al venerdì, dopo l'informazione delle 12 su Radio 24. Della Belva. Ed eccoci qui, siamo arrivati all'ultimo blocco in chiusura con tutti i compari dei Conti della Belva. Renato, perché io questo sì, è ci tuo sono, spazio. Ci sono, scusa. E caro Alberto e Mario, ci siete entrambi ancora? Ci siamo. Perché io vi devo chiedere una mano, perché voi dovete sapere che ci ha tenuto particolarmente Renato a questa chiusura della trasmissione, perché voleva fare una riflessione, però voi lo dovete incalzare, su un tema un po' slippery, un po' scivoloso per così dire, ma fondamentale, lui dice, per la qualità dell'output di ogni impresa ben guidata e amministrata. E il tema è le donne nell'impresa e soprattutto, adesso, intendiamoci, le belle donne, belle di carattere, non stiamo parlando belle di misura di tette o di gambe. Cioè, no, mi vuoi inguaiare così? No, allora io ho detto, sentiamo che cosa dirci. Però Mario e Carlo Alberto anche saranno i tuoi giudici critici. Allora, dici l'importanza per un imprenditore, l'importanza di avere collaboratrici. Come diavolo, cosa vuol dire belle e buone? Allora, a parte il fatto che, no, giuro, non l'ho chiesto io, insomma. Con la compagna. No, assolutamente. Tanto sai che non mi ascolta, quindi il problema non ce l'ho. Oh, partiamo da questo presupposto. No, adesso, a parte il fatto che mi hai messo nei guai, ma perché mi hai proprio dato una roba da scivolo, è difficilissima da dire. C'è un problema, secondo me, che sono diventato vecchio, ancora più vecchio di quello che sono già questa settimana, in questo momento di equilibrio. Perché noi imprenditori abbiamo la responsabilità di creare una situazione che sia del tutto tranquilla e quindi di evitare sexual harassment, tutte queste cose qua, no? E sta diventando una cosa che, rispetto a come eravamo abituati noi, più complicata? Quasi sessantenni, è diventata complicata. Perché io avrei detto il contrario. Qui manca mele. No. Secondo me è diventata complicata perché ultimamente vedo un po' più di nervosismo su questi argomenti, soprattutto da parte di una certa categoria di donne un po' battagliere. No? Mm. E sta diventando, secondo me, un po' complicato perché, mentre una volta l'ambiente di lavoro, si sa, è abbastanza diciamo da caserma normalmente, non è che siano proprio dei posti dove si cerca sempre di renderli il più fluidi possibile, eccetera eccetera, però sappiamo tutti che c'è il nonnismo, ci sono tutta una serie di meccanismi che è impossibile togliere, perché comunque è impossibile toglierli. Ed è un, io lo trovo un po' complicato il discorso delle donne, delle belle donne in azienda, perché poi sei sempre, hai sempre la paura che arrivi qualcuno che magari fa la battuta, eccetera. Poi guarda, le belle donne in azienda una cosa sicura ce l'hanno, che dove le metti, diciamo, fisicamente a lavorare, cioè c'è un maggiore passaggio. Questo, ma cioè, quindi cioè, in realtà mi ci stai confermando che siamo ancora, cioè esiste ancora davvero un problema? Non sì. È allora il discorso è che lo facciamo diventare un problema. Secondo me è insito nella natura umana il fatto che se uno piacciono le donne e c'è una bella donna, sfido chiunque a non guardarla. Allora, no, scusa un secondo. Carlo Alberto, perché alla Bocconi avete meno colleghe di quanto non capiti nell'università pubblica? Ma diciamo, la selezione intellettuale prescinde molto dalle caratteristiche estetiche. Noi abbiamo tante colleghe. Io, per esempio, ho una collega russa nel mio studio che è oggettivamente una gran bella ragazza. Devo dire che non mi distrae, perché anzi mi ingaggia in sfide intellettuali molto interessanti. No, ma quella non ti distrae perché con lei non fatturi, perché a te solo ciò che ti fa distratto da fatturare. Io faccio anche l'advisor economico della Fondazione per l'Italia, quindi passo da anni per l'imprenditorialità femminile. Il problema è avere proprio le donne greche, cioè Kaloskaya Agathos, cioè quell'insieme armonico di bellezza, che non è solo estetica, ma è una bellezza di carattere. Allora, quelle donne fanno benissimo all'azienda, perché portano armonia, portano il culto dell'attenzione ai dettagli. E quelle donne, scusate, più che un oggetto di natura di attrazione fisica, sono una stella radiante di energia. Vabbè, io ci sento una cifra di retorica eccessiva. Mario, siccome tu sei antiretorico, la domanda che faccio a te, davvero, questo parlare di cosa vuol dire, nella tua esperienza professionale, tu hai fatto diverse, hai lavorato a diverse banche, hai fatto diversi mestieri, adesso sei in un'impresa che non è un intermediario finanziario. La questione delle belle colleghe, nel tuo caso tu non sei un imprenditore o il manager, eccetera, hai una responsabilità molto pesante, ma sei all'interno di un organigramma, e più o meno è sempre stato così. Le belle colleghe sono state un problema? Erano premiate, rappresentavano per i colleghi e per chi stava sopra un problema? Che esperienza hai? Ma io, guarda, non ho mai avuto alcun problema di nessun tipo, credo, di una sorta di bias, di premio per le belle colleghe. Devo dire, forse sono stato molto fortunato negli ultimi 22-25 anni in cui ho lavorato. Sono passato attraverso ambiti in cui la presenza femminile era estremamente limitata, ad altri in cui la presenza femminile era pressoché maggioritaria. E devo dire che non ho mai avuto una situazione di criticità con linee di demarcazione in base al sesso. Magari sono anch'io un'anomalia, senza fare retorica o senza tentare di difendermi da situazioni apparentemente scivolose. No, ma tra l'altro mi hai preso la sprovvista, quindi io sono anche un po' confuso. Io ti dirò la verità, per esempio, perché io lo sapevo che finiva così. Io evidentemente sono un campione anomalo, perché io in tutti i posti dove ho lavorato nella vita, naturalmente come sempre bisogna dire eccezione fatta per questa Radio 24, però in tutti i posti in cui ho lavorato prima nella vita, io ho constatato la presenza di schifosi problemi nei rapporti, sia verso chi stava in alto, verso le belle donne sotto, sia dei colleghi con le belle donne. Avrò beccato solo io i posti anomali in Italia. E credevo che la situazione fosse migliorata, per questo mi sono preoccupato prima. Cioè, io effettivamente, lavoravo in un partito politico, le segretarie venivano ipermolestate dai dirigenti e dai partiti. Dicevo, sono sincero nel dirlo. Mi è capitato di lavorare in gruppi editoriali piccoli e medi, e idem, ho sempre visto cose così. Non dimenticare che nel mio caso... sarei reo confesso se dicessi che vengono molestate. Però lavorano con me. Voi mi dite che non avete incontrato problemi. Tu sta diventando complicata la questione di genere. Questo l'hai detto. No, io ti dico, io non ho mai visto particolari problemi. Però la nostra è una piccola azienda di donne, ce ne sono una certa quantità, soprattutto diciamo nella parte impiegatizia eccetera. In produzione ne abbiamo poche perché facciamo un lavoro abbastanza pesante, quindi è difficile inserire persone di sesso femminile. Va bene, e io, caro Alberto, secondo te è così raro, siccome so che lavori anche con la Fondazione Bellisario, quindi sui temi del tetto di cristallo, per così dire in due parole, ma secondo te questo fenomeno, cioè il maschilismo imprenditoriale manageriale, lo abbiamo sconfitto? Non ancora, è per quello che da liberale dico che ogni tanto un po' di affirmative action, cioè di spinta ci vuole, se non altro per marcare il territorio, anche se non nel lungo termine, per esempio forzare una politica di diversità in certi casi come scelta organizzativa è indispensabile. I imprenditori devono avere il coraggio di inserire le donne nei posti chiave, di mettere alla prova e di esporre anche questo rischio, e sono convinto nella mia esperienza che questo rischio venga superato soltanto guardandolo direttamente negli occhi. L'infingimento, l'ammiccamento è il modo sbagliato, è giusto parlarne ed è giusto affrontarlo con decisioni imprenditoriali chiare, e quindi serve coraggio a guardare. No, tra l'altro da me le donne occupano posti di grande responsabilità, quindi... No, ma io questo non. Io per esempio ero a favore dei provvedimenti tipo le quote rosa, purché rigorosamente a tempo, perché servono a dare una spallata, non possono diventare le riserve indiane. Però, detto tutto questo, eravate tutti molto imbarazzati, perché, cari ascoltatori, io ho fatto una sorpresa a loro tirando fuori il tema, così si è capito anche da come era nato. Credo che su questi temi i maschi devono innanzitutto imparare a liberarsi delle ipocrisie, cioè se un problema c'è bisogna parlarne. Io, ripeto, ho constatato che questo problema esiste come ancora nelle imprese italiane. Cari compari, vi avviate a un fine settimana di bisboccia, Mario? Sì, abbastanza, ma io sai, qualche giorno di pausa me lo sono preso dopo una lunga estate arida, esatto. Quindi alla fine mi rilasso. Carlo Alberto invece, come ovvio, fatturerà anche la domenica notte. No, io devo produrre valore, caro Oscar, però non sono mica convinto che sia una brutta notizia per l'Italia il fatto di non poter più spendere. Quindi, no, infatti anch'io. Io ho rivelato questa settimana di fronte a una levata di scudi che avrei votato per FDP in Germania, quindi figurati un po'. Quindi, ma invece il nostro grande Renato? No, io ho festeggiato l'altro ieri. Quindi... Facciamo gli auguri in ritardo, perché ha fatto i suoi 21 anni. Il 23 nostro... quest'anno. Va dai. Bene, cari ascoltatori, buon fine settimana a tutti. Appuntamento comunque con me lunedì alle 8:15, 24 mattina con Luca Telese, e il pomeriggio alle 16 con la versione di Oscar. Fratelli d'Italia, l'Italia.